sera a tazza Anna Jet Ferreira, seguo 100 reine per la Champions al mattino. Forza attenta per Kirgara, forza attenta per Kirgara. Alina Lig, Alina Lig, sera tazza Anna Jet Ferreira, seguo 100 reine. Alina lì, Alina lì, de sena tazza, Anna Jet Ferreira, sibo 100 reine.